étrange est acquis. Pra fora desse quarto, com a tua mão serena, teus olhos, pra fora desse muro, me leva longe daqui. Que eu sei que devo seguir essa voz de você. Portami fuori da qui, nell'aria che si muove, di tutti i tuoi capelli, e con i tuoi colori, portami via da qui. Tu sei lontana per me, con la tua voce. Me leva longe daqui, che eu vou. E vengo io, vengo con te.